10, c'è qualcuno all'ascolto? Hola, CQ10, c'è qualcuno all'ascolto? Proprio in tempo, sono arrivato, proprio in tempo adesso. Gaffa, ciao Giù, ben entrato, buonasera. Ciao Vattari, sembra che abbiamo fatto l'appuntamento, proprio adesso, accetto, proprio in questo momento, proprio stavi già parlando, quando tu, praticamente, quando io sono arrivato. Ok, anda bene Meda, dice quello. Porca miseria, sono stato quasi 2 ore alle poste, mamma mia, c'era tanta di quella gente, era una cosa incredibile. A chiamare fino al 31, so, scaglionati, compreso. Eh beh sì, in effetti è così, è vero, proprio per quel motivo c'è la questione della lettera, no? Dall'iniziale del cognome, c'è tanta gente, ma poi si possono conto da voi vedo più di chinesi che bianchi, oh, ogni tanto ne arrivava uno, e poi tutti col telefonino che avevano già la prenotazione fatta, che ne mai? Dimmi tu. E io non ci sono andato a farmi lo speed, non ci sono andato perché ho detto mamma mia, io non mi so chissà quanti bastoni, ma avevo preso l'appuntamento e non ci sono andato perché era troppo tardi, io devo mangiare a un certo orario e quindi non ci sono andato per quello. Infatti anche quello è vero, se puoi prendere l'appuntamento non lo puoi rispettare l'orario. Allora non va bene, e certo che no, e vabbè comunque, anche questa è fatta per oggi, va. Sì, infatti, chi so dove farlo, quando è a incassare, bisogna incassare e basta. Sì, infatti bisogna avere pazienza, come ti dico da serio, pazienza è del tango fremmo, lo distinguo della serie. Di paesi, di Wainzo di via Magenzia e Curubrimu. Infatti. Vabbè, oggi pure avremmo fatto questa commissione e va bene così, non c'è problema. Domani è un altro giorno, domani ci penseremo. Sì, per quello ti conveniva farti fare la tessera, come e quindi tu non devi rispettare né lettera del cognome né nulla. Quando li danno tu vai e uccidi da fuori, senza va né fila né nulla. Se no lui è la biglivona. Lo so, ma se per quello me li posso fare accreditare su direttamente in banca, direttamente alla nazionale, e così non vado niente del tutto. Ma io quello non l'ho mai fatto, lo sai, dallo scopo di farmi 4 passi, sanno che prima Covid di non veniva, e dunque si andava tranquillamente, si faceva la passeggiatina, anche se aspettava mezz'ora, anche di più tante volte, andava bene, ma adesso è un'esagerazione, con questo fatto del Covid, devi varare la via, entrare a uno, fanno entrare, perché c'è il portinaio lì alla porta, e ci fa entrare uno alla volta. E dunque i tempi si allungano molto. Infatti, che poi in giornata delle pensioni ti pare devi mettere una cassa sola, mai io, che fanno ridere. Fanno ridere e allo stesso tempo danno anche fastidio, perché non è giusto che uno si prenda l'appuntamento, arriva lì e tu che sei individuo e passa prima di te. O perlomeno fate così, mettete uno sportello specifico solo esclusivamente per quelli con lo speed. E poi gli altri in maniera normale come c'è sempre fatto. Però dà fastidio vedere uno che arriva direttamente a dritto così, no? Anziché stare lì aspettando nell'androne direttamente a dritto e se ne va subito nel giro di pochi minuti. Non va bene così, questo qui è un'offesa alla gente che sta ore lì ferma aspettando. E poi questi anziani, poverini, che fanno la fila, che non sanno usare il banco, ma se devono per forza entrare dentro a prendere questi 2 spiccioli di pensione, mai io, cazzo, mi basini qua, non ridere, non incavolare mi fanno quando è così, perché perché vedi questi anziani poverini, e tu basta prima dire anziano che la due ore prenderà via, non è giusto. Non è giusto, no. Te ne racconto una, proprio oggi c'era una donnina, una bella riccia che avrà avuto sicuramente più di 90 anni, di sicuro. Ma se tu va a vedere questa donna poverina, non riusciva nemmeno a reggere in piedi. La scala che c'è lì all'ingresso delle poste centrali, l'hanno dovuta aiutare per salire la scala, facendo quella vasia, tutta tremolante, tutta... è arrivata davanti all'ingresso e c'era quella che c'è all'interno, quella che gestisce l'ingresso, diciamo, dai, quella persona che gestisce l'ingresso. E gli ha detto, tutti quanti, lo faccia passare questa donna che non ce la può fare, rimane... cosa deve fare? Devo prendere la pensione, e come si chiama? Le ha dato il cognome. No signora, oggi a lei non gli spetta. Dunque non la faccio nemmeno entrare perché intanto non le danno. Perché questa qui era con la lettera S. E a quanto sembra la lettera S è sabato. Che si può immaginare? Non l'hanno fatta entrare in una maniera più assoluta. Perché ha sbagliato il giorno che non gli toccava e non gliele potevano dare, capito? E infatti ha sbagliato il giorno, una donna, sto dicendo, questa aveva, guarda, non meno di 90 anni, ne poteva avere anche 95 secondo me, perché era talmente messa male questa persona, che poi non capisco come mai una persona così anziana non sia stata accompagnata da qualcuno, perché non è possibile, non riesce a camminare. Camminando, boom, piano piano e tutta tanta romba romba da una parte all'altra, perché non ce la faceva. Te lo sto dicendo, per salire le scale l'hanno dovuta aiutare, se no non ce l'avrebbe fatta a fare quei 4-5 scale, quante ci sono. Sì. Maria, ciao, per esempio, va a 94 anni, ma tu la vedi, è pure zuffa e cammina, che ha avuto un incidente e gli hanno crepato il ginocchio, poverina. Beh, tu la vedi, andando e tu rendi, Ambrosino, un Bari. Beh, evidentemente sta bene, fisicamente sta bene, ha fatto il ginocchio che le avevano infortunato. Però questa si vedeva, era veramente la madre, ma poverina, se tu la vedevi, solo a vederla, ti faceva compassione, guarda. Infatti dico, ma è possibile che una donna in quelle condizioni, a questa età, debba essere così, non debba essere accompagnata da qualcuno, almeno. Boh, cosa vuoi dire? Purtroppo, evidentemente, sola, questa, ma dice, vabbè, mi servono i soldi, gli ha detto che non è oggi, che non posso aspettare a sabato, che poi gliel'avrebbero dovuta dare, ma che ve la date, cioè, diciamo che dunque, sì, come regola, ti assegna la pensione già dal primo giorno, e allora, ma con motivo non ve la dai, dica buonanotte, non gliel'hanno dato, assolutamente, dice, niente da fare, signora, deve venire sabato. E poi aveva anche bisogno questa signora poverina, a me so cose che mi guarda, io l'ho vista, le ho viste e quindi le so queste cose. Cazzo di Rugubi, di rompendo un po' pure i cazzi. Sicuramente aveva bisogno, non ne ha dato assolutamente. Una donna che sa, adesso sabato prossimo quando dovrà venire di nuovo alla Reposte per prendersi la pensione, poveretta, chissà se ce la farà anche. A chi ti devo dire, non regia in piedi. E poi si era meravigliato come ha fatto ad arrivare lì all'ufficio postale, forse abitava vicino, boh, non lo so. Ma era proprio una pena, vedere questa persona era una pena o con la casa. Sì, me lo posso immaginare, giù. Quella si deve rivolgere ai carabinieri, la portano fino a casa alla pensione, non ci deve andare, con chi se dai, chi va, che non vi la vale. Signore. Anche già quando già è vero, se uno ha più di 75 anni ha il diritto di farsela portare a casa, certo, ai carabinieri, purtroppo è così. Magari non è manco lo sa, queste cose questa donna nemmeno lo saprà. Oi, oi, oi, quanta sofferenza che c'è in giro da parte di certe persone, tu devi lì per carità. Sì, infatti non sarà neanche informata di questa cosa qui dei carabinieri, questa signora, non esami e basta, sennò Savialdu, per esempio, la gatta, figlia di una lavora, ma questa donne anziane non ne sanno usare, non c'è nulla, la mia moglie non ne sa usare, ed è più giovane di qui, e devo andare io a pigliarle la pensione, figlio la mia e la sua. Sì, beh certo che se così è meglio, anche perché guarda, mandate le persone, le donne anziane al banco posta, è anche rischioso, basta un digraziato lì e te ne prende su quando appena prelevati, finché si tratta di un uomo è diverso, l'uomo ha già modo di difendersi un po' meglio anche se è anziano, ma una donna in quelle condizioni, una donnina di trovi lì, insomma se soffiava appena più forte il vento oggi l'avrebbero becciata, minata lì, tanto per dirti quali erano le condizioni di questa persona. Sì, non va bene, no, non va bene, nel modo più assoluto. Quando non vira nemmeno qualcosa, c'è gente da Risinco di Manzano, venderà la vita, che ci femmine anziani, così, mamma mia, a me mi facevano... Purtroppo sì. E questa situazione si riflette moltissime volte, magari anche tutti i giorni, c'è sempre qualcuno che si ritrova in quella condizione e che purtroppo non ha modo di essere accompagnata o di difendersi. Vanno a favorire a voi quelle persone che si mettono in fila per prendersi il pacco degli alimentari che gli danno tutti i giorni, anche quelli poveretti, a stare ore e ore a dargli magari un pacco di minestra, quelle che si mettono lì, che via è quella, via Margherita di Savoia, mi pare sia di Savia. Sì, tu stai dicendo vicino alla questura vecchia, là. Lì, dietro proprio dove c'era prima la questura vecchia. Anche quelli li vedi, poveretti, tutti ammassati lì, tutti. Ma quando mai la città con l'essere umano deve vivere in queste condizioni? No, non è possibile. Parliamo visti di un terzo mondo, parliamo, non è una vergogna veramente, guarda. Sì, infatti è una vergogna, Purtroppo così, ne ho da quello, ma comunque. Tu mi dirai, ma se dovessimo piangere tutte le situazioni che vediamo tutti i santi giorni, no, ma perché dà fastidio quando tu vedi una persona di una certa età in queste condizioni, a me mi dà fastidio veramente, che vedo, e poi se uno è monofilista, se uno va un bello in Uguria, allora quindi vabbè, saremmo la figli, quelle non sono persone sensibili che hanno sentimenti. Ma vedere certe situazioni a me dà fastidio, la verità. Ma che non dà fastidio? Purtroppo succedono queste cose. Pure a noi. Purtroppo sì. Vabbè, comunque. Allora, come dare a voi di Sebastone che sono precontenti, a voi sono pochissima, a lì sì. Tu l'avete abbassata lì, io ruccio a capo, vivo a farvi la comprendita. Sono quelli che poi protestano, se sono prima io, magari arrivano 4 ore al buio, però hanno la faccia scolorata di cercare di saltare la fila davanti ad un altro che è arrivato prima. Purtroppo vedo pure che si bastoni, si malocati. E ieri è successo al banco, ma si dice delle poste, è successo, che questa signora voleva entrare per forza prima degli altri, ma io. Infatti, anche quello succede, ma comunque, tiriamo a campare, la devi dare ragione, se ce la dovessimo prendere per ogni cosettina, allora addio, però è fastidioso veramente, è fastidioso, perlomeno a me mi dà fastidio, poi, chiaramente quello che posso fare, io non posso fare niente, come non possono fare niente in tanti, ci sono... regolamenti da rivedere sicuramente, soprattutto persone che dovrebbero imparare un po' più di educazione, anche quello ci vuole. Sì, educazione, i furbi vogliono fare, non è altro, no, i furbi vogliono fare. Vogliono entrare prima degli altri. Chi c'era due ore difende l'intra, però era ultima, cosa c'ha in chi li ha rompi di cazzo? Lo so, purtroppo è così. Appunto. Però vai tu e per la vita che sei cari che bastoni. Che se devono comportare in maniera civile. No, nella fucchi niente. La gentaglia è gentaglia, non venduta la fa. La gentaglia, la bastona nasce gentaglia, è gentaglia muri. La bastona seria, nasce seria e muri seria. E infatti, è piccina. Io ti hanno detto cosa pure perché ho messo due carte, perché dovevo prendere attenzione mia e quella di mia moglie e io. Hanno detto cosa pure bagnizzo. Ed io mi ha giocato la fila in via 25 aprile perché c'era la fila, no? Per il banco. Ma io ho fatto la fila e a lui mi ha detto che andate e ha giocato di subito più qua. È pittina. Beh, certo che sì, è la lupia. Io devi fare altre operazioni di sportello e magari hanno 3, 4, 5 cose da fare, non lo so, versamenti, pagamenti, bollette varie, allora che ci cosa di voi morire? No, ne fai solo una, così dimmo. Che ci vuoi dare altro sportello e fa quello che deve fare. Non è che tu hai una persona, se uno ha 3, 4 cose da fare, che gli puoi dire ne fai solo una e poi da voi fai solo la vita, no? Non va bene nemmeno quello. E pure pretendono di farti fare uno o due cose e poi devi fare torno alla fila, secondo Luca Budelli. Non è possibile. Vabbè, comunque. Andiamo da trovare te, non c'è problema. Tornando al discorso caldo, un bel, io un bel, no, a gennaio prende di luce, si giura addirittura sotto la luce, ti puoi immaginare, con questo caldo, ragazzi, oggi 34 gradi erano fino a poco fa, adesso non lo so in questo momento, ma suppongo che era più o meno la stessa cosa. Sì, infatti, non accenna a diminuire. Purtroppo così, ma è che c'è un piccolo venticello, vuole che non vede tanto un po' il venticello, perché sarebbe stato micidiale oggi il caldo, sarebbe stato proprio una giornata impossibile da stare in strada. Entro a casa bene o male già si sta bene, perché uno è attrezzato e o ventilatore o condizionatore, dentro a casa già si sta bene, ma in carriera non si può stare. Vero fuoco in giro, per carità. Infatti c'è il fuoco, sì. Oh signore. Ma io non so, fino a che io gli ho fatto il ventilatore, noi ci ho fumato, però c'è caldo. Beh, c'è caldo, sì, certo che sì. Purtroppo così. Anche quando con condizionatori uno non è che ne può abusare troppo, perché se lo metti troppo forte poi magari ne va dei volumari, però un po' del refrigerio già non guasta, già va bene, magari mettendolo basso basso a temperatura diciamo non molto fredda e gli andare. Beh sì, sono entrato in negozio, ma congelato. Caldo è arrivato. Cosa c'è? Il bicellino è vicino, no? Ogni tanto lo sento cantare. Aspetta che è venuta la 50. Ok, vai. Mi hai detto la salita, che ero distratto. Come giù? No, ho sentito parlare, non so se è tu o se è la cosa di un altro, perché ero distratto un po'. No, non ero io, stavo parlando con la 50, io giù. Ah, ok, vabbè, allora mi sono sbagliato. Perché ero distratto, mi sono allontanato un po'. Dunque, forse la propagazione. Può darsi. Sicuramente così, no, qualche dia si sente un po' di propagazione. telefoni. Se arrivano, già li contattiamo anche noi, e perché no? Fino a questo momento non è una grandissima propagazione, però può darsi che ci sentano lo stesso, io non lo so. Comunque, al momento noi sentiamo un pochino bassi. Giulio? Sì, già sai, dimmi. Stavo parlando con la 50, adesso devo uscire, che mi stanno andando a pigliare roba, dai. Ci sentiamo più tardi magari, ciao Giù. Ecco, sono salito, non c'è problema, figura. A dopo allora, se coincide, se no domani. Ok, ciao, ciao, la carità. Ciao Giù, alle prossime. Per questi incendi, poveracci. Povera gente, poveri animali, mamma mia che fine, è orrenda che hanno fatto. Molto danno, molto, molto, vedete come fare, purtroppo. Gente ignorante. Ma chissà che cosa c'è dietro, boh. Sono partiti un sacco di incendi contemporaneamente. Insomma c'è anche la politica dietro, tutti questi per avere finanziamenti, noi neanche ci immaginiamo cosa ci potrebbe essere dietro. Vabbè, ho capito, ma il danno quant'è? L'hanno quantificato il danno? Ancora no, mi sa. E intanto ormai la comunità europea stanzia non so 8 miliardi di euro. E già loro ci riguardano dentro, poi qualcosa ci danno, le briciole le daranno a te che ti hanno bruciato, non so, la tua dieta di qua, la tua animali, e allora il resto se lo mangeranno loro. Ah, beh, quello senza dubbio. Meno male ci sono stati morti, qualcuno se l'ha stampata. Sì, se non sbaglio, addirittura la data coincideva con quello che era successo a Curraggia, su a Tempio, che era morta, lì erano morti parecchie persone. Diciamo che noi, meno male, insomma, meno male, oddio, già stiamo lontani da queste cose, Sì, abbiamo provato anche a innescare la spiaggia di Alghero, comunque, la pineta di Alghero, abbiamo trovato un innesco, qualcosa lì a Uniferi, ci provano già. Io ho visto una sigaretta con dei fiammiferi attaccati con la tesolante. Ma poi anche quella dice che è una tecnica. Ma la sigaretta, quella di adesso, si spegne, non è come quella che c'era una volta, che rimaneva accesa, capito? Si spegne quella. Ma è perché mancano le sostanze, tipo burro, benzene, che ci mettevano prima. Ah boh, non so, io sono tanti anni che non fumo, no, non mi interessa. Però boh, secondo me sotto c'è qualcosa. Chi lo sa, boh. Tranquillo, tranquillo, che ci sono interessi dietro, che noi neanche ci immaginiamo magari. Senza dubbio qua, senza dubbio. E vabbè. Interessante che dispiace, però noi già siamo un po' lontani da queste cose, no? Io non siamo mai al sicuro, l'abbiamo visto quanti anni fa, la pineta di Platamona, c'era rimasto più nulla. Poi addirittura quando mia madre era ragazzina aveva contribuito a piantare tutte quelle piantine lì di pini, dai piccolini. Sì, sì, io ho visto tutto in diretta, io alla marina di Sosto e passavano elicotteri a andare Canada. Lo stagno, qualche anno fa hanno bruciato lo stagno di Platamona. Anche lì hanno distrutto un sacco di fauna, anche che lì ci nidificano un sacco di uccelli, falchi, vabbè, altre cose varie, un sacco di fauna lì, nel posto là. Allora, oggi è segnato le massime 34, adesso sono 31 gradi in questo momento, così mi sta segnando. Poi domani sono 35, venerdì 36, sabato 36. Con piogge 7%, ma non piove. Poi domenica 24% di pioggia, ma non piove. Poi lunedì, vabbè, 30 gradi domenica, 30 gradi lunedì e poi risalgono di nuovo, martedì 34. Ma speriamo bene, vi faccio fare un po' di giorno di mare almeno. Poi pesca, qualcosa così, non chiedo altro, là. E poi ci riposiamo, se no. Questa domenica è primo agosto, minchia. Come? Questa domenica che avviene, primo agosto. Sì, tu vedi che è primo. Sarà macello, la maggior parte delle persone vanno in ferie, mamma mia. A me poco mi piacciono in questo periodo le ferie, purtroppo sono costretto a prendere ad agosto. Ti piacciono? No, io prima facevo la fine di agosto e metà settembre, prima. Luca! Eccomi qua, che sono andato a prendere la racchetta che c'era. C'è una mosca che sta rompendo le scatole. Chi è che mi ha chiamato? Una signora qua. Chi è che mi ha chiamato? Avanti. Vabbè, la mosca è sparita. Una volta prendo la racchetta, quella racchetta famosa dei cinesi, quella che è dalla scorsa. Quella è ricaricabile, vedi, perché ho la batteria, questa. La batteria, Io ne ho un paio ricaricate. Già funziona, c'è il becchi, già funziona. No, pardon, è ricaricabile, c'ha il coso, la spina. Sì, allora come la mia. se lo siamo anche ammesso, ma è venuto se funziona molto la batteria. Ci guastano anche queste cose, ci guastano. Ormai le queste le zanzare le sto tentando con l'aspirapolvere. Appena le vedo, la prolunga, no? Loro fanno volare, ma non ce la fanno, è più la patente che le attira, vrum, e tornano indietro invece di andare avanti. Oh, però questa spina fra la tiro e non, la spina non esce, come mai? Ma in frigo la stai mettendo? No, no, ma in frigo la devo mettere. E allora, se no non riesci a spillarla, se no. Scaldo, fa queste cose, fa questi effetti. Ma poi gestore, alla fine è ricaricabile, poi non so da quanto la batteria. Se no l'ho manca persa. Ma dovrebbe essere da 3,7 mi sa. No, non sono quelle. Non ho mai visto quelle batterie quando ce ne vanno, più o meno sarà la stessa cosa, forse ce ne vanno, se andranno due di quelle da 1,5, quindi saranno sui tre volt, sì, dai. No, no, secondo me c'è la. Perché da 2,20. Oh, non lo so. Magari c'è da tanti anni, ancora sta funzionando. È bello quando la cassa la zanzara, te la godi bene, quando senti tutte quelle scariche. Ha voglia. Tu pensi che faccio uscire anche il fumo? Inizia a puzzare dopo. Beh, una volta mi ricordo è stata una mosca nel lampadario, che dove ci sono le lampadine a oggi, no? Minchia, ha fatto una puzza allucinante, guarda. Ma per giorni e giorni sentivo ancora l'odore. Cioè, al circolo di quel mio amico è stata una vespa, ma un'apre. In che mi sono voluto, oi, tu dici, appena tu rendi, senti il gabbio, la racchetta, una scossa, poi l'ho messa in terra, gliel'ho lasciata sopra, senti la ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. È uno zio che è campione mondiale di racchetta. E va. Sta sempre questa racchetta in mano. E poi si fa tutto dietro i divani, no? Sentiva le scariche, io non sentivo nulla. Lui sentiva le scariche, prese. Era già utile, là, perché con quella semplice sì la prendi, ma con questa la prendi e la ammazzi subito. Sarebbe prima che erano quelle lampade fisse, là, che le appendevi, aveva addirittura una luce per attrarre gli insetti. E poi dava la scarica nella griglia. Più o meno l'hanno rifatta, come si dice, quel modello lì, là, sfruttando quel modello. Sì, però c'era una batteria, però non funzionava, era un po' strana, boh, l'ho provata, ma niente. Queste qua sono migliori invece, queste ricaricabili. E chissà cosa c'hanno per trasformare la corrente, diciamo, quindi va per la potenza, blu? È la batteria che gli fa qualcosa, no? Quanto la batteria? Però non è la corrente della batteria, c'è qualcosa che amplifica la scarica, è più forte della corrente che dà la batteria. Ah, sì, un circuitino c'è dentro, sì. Sì, sicuramente c'è qualche cosa che amplifica la corrente, la rende più forte, dai, tipo una bobina della macchina, della moto, ogni scossa. La scossa penso che dia anche fastidio tu quando l'ho visto. Non so, non ho mai provato, dai. Mi ricordo quella dell'accendino, lo mettevamo nel pantalone con la ragazzina al tipo vicino a noi, in abrinco. È vero, sì, c'è più di uno. E comunque con questo caldo al baracchino non entra nessuno, manco Giulio. Ah, ieri mi sei entrato, boh, se non me lo ricordo, avanti ieri, boh. Giulio, ci sei? Chi è che mi ha chiamato prima? Quel poco male natalino era. Non so. Entrando Natalino. Qua nella stazione delinguente. No, io ricordo, accendo, vabbè, giusto per far scaldare un po' qualcosa, ma come dici tu? Sento gente in propagazione, ho provato il tipo il meglio, i canali acida. Ah, sto correndo questo quest'aria che sta passando qua. Ogni tanto arriva, ogni tanto no. Oh, qua già ci sta bene. Giornate così ventilate, dormi anche bene. Sono state notti e purtroppo per via dell'incendio poi c'era l'aria calda, un casino, non si poteva manco dormire qua. Io di notte accendevo le cose, climatizzatori, se no non ce la fai, almeno fino a mezzanotte, da una, i programmi, non potete togliere poi l'umidità, già stai subito bene. Poi una volta che ti addormenti se ne parla, poi la mattina poi già rinfresca. Sì, la mattina, diciamo che è sempre fresco, però vabbè, purtroppo per questi incendi, mamma mia, un casino. Si sta arrivando a cenere addirittura anche a Patamona. Sì, dappertutto. Se ci pensi, no? È andato dalla faccia, se ci rocco. Si è caduto adesso, sì. Forse ha ragione, Fla, sono da 1,5 le batterie. 2 da 1,5, mia, sì. Ho detto, sei a casa tua, sì. No, da 25. Ok, arrivi bene lo stesso, no? No. Radiale? No, allora, no, aspetta, sono 600 mA, 2.4 volt. Ma dentro hai smontato la ricaricabile, hai smontato? Sì, la racchetta ho smontato, sì. E allora, quelle che sono la batteria ne hanno 2 da 1,5, quindi arrivano a 3 volte, arrivano. Sì, o meno. Sono 2.4 volte. No, queste funzionano bene. Ne ho un paio, una qua e una giù. E vabbè, scusi. Una cosa, la vita interna non ha trovato. Ma storiscono le vite interne. Ma sta chiudendo. Adesso lo si anche la persona, è piccolissima. Le macchine stanno smontando una cosa. Oh, mi è caduta dove c'è la regolazione del sedile, là. Lì c'è una fessura lì dentro. Oh, non l'ho più trovata. Ciao, il cavolo se n'è andato. Era proprio la vite che regola l'antenna del baracchino, della macchina. Due burgole, no, una di quelle mi è caduta lì dentro. Bella fortuna, già l'ho trovata, là, sotto il divano era. No, io non l'ho trovata, mi sono tornata da un'altra antenna. Adesso mi devo cercare una di quelle burgole, tu. Ah, a me, che bella di caffè. Stavo dicendo, scusa, stai usando la radiale di mantova sempre? Oh, no, l'antenna, c'ho la boomerang. La boomerang grande hai messo? Sì. Aspetta, dice bene, tipo quella di Gianni. Sì, mi sale uguale. C'è un bel radiale, da quant'è? Da oltre 3 metri. Questa antenna è... dove... boh, non lo so, se fosse 3 metri, boh. Sì, perché non era la classica 2,75, mi sa che era più alta, boh. E dove l'hai puntato il radiale? Il radiale è in basso, verso lo fenditoio. Cioè, verso... Basso giù, dai, giù, basso. Ah, vabbè, la storia che vuole, come diciamo punto cardinale, dove è orientato, nord, est, ovest? Verso il basso è messo, poi verso... allora, tu prendi l'antenna, no? Il radiale, ce lo senti tu, verso il basso. Sì, ma il punto cardinale? Forma diciamo una V antenna, una è verticale e l'altra un po' verso il basso, però è orientata verso una parte, non so, verso Grattacielo, verso Platamona. No, praticamente verso il basso, verso il terrazzo, dai. È un punto, non lo sai, il punto cardinale, dai. Cosa vedi, là, la parte di Sassari, cosa vedi, il mare? Ah vabbè, la parte dove è puntato, latte dolce, quella zona lì, là. No, arrivi bene qua, vuol dire che questa stata non è che è puntata, perché è un po' direttiva ora lì. No, male niente, male ce l'ho alle spalle. Ma io non la sempre su questo Sassari, dai. Yes, questo Sassari. E arrivo anche bene da Claudio, insomma, queste persone ci sono qua in zona. Come arrivi a Claudio? Boh, mi sa 9, 8, 9. Cazzo, arrivi meglio di me. Vabbè, io non ce l'ho sul tetto. Perché io ho citato ciò? Sono sul terrazzo. E che piano sei? Terzo. Già sei più alto di 2 piani rispetto a me. Ah, va bene. Adesso non so se c'ho stazionari, non lo so. C'ho un rosso, metto a casa. Sì, ma tanto... ora come ora non è che c'è gente, ma l'inverno un po' di più. Allora, quello che è importante è l'inclinazione di quel radiale, perché quello ti dà l'impedenza. Quello vuole regolato fino a trovare i 50 ohm per risuonare, capito? Sì, ma quello lì anche c'è lo stilo, che quello serve per le stazionarie, però secondo come lo metti quello, non scendono, eh? Sì, perché se no devi attaccare anche l'angolazione giusta. C'è anche roba di ferro vicino, ferro per tendere, come ero prima io, là. Sì, sì, vabbè, c'è una ringhiera. Un po' forte. Beh, non gli fa, però vedo che sta facendo bene. In base come regole radiale cambia l'impedenza, può salire o scendere dai 50 ohm, da. E poi le stazionare le regole con quello tubo che c'è là. Ah, sì, sì, sì, esatto. Allora, è in alluminio come antenna. Già sta andando. Ah, avrà venduto Antonio, l'avevo pagata 30 euro. Antonio Bombo? Via. E poi con Claudio l'abbiamo tarata, un casino, non è facile. Si è messo lui fuori e io dicevo regola, regola, poi l'abbiamo parata 1-1. No, no, perfetto, sta uscendo la grande. Poi ti arrivi così bene, lontano, come dici tu. E poi si è aperto, c'è il palazzo di fronte. Eh sì, c'è un albero grande anche. No, no, papà, c'è vento, proprio così. No. Io invece davanti ho un palazzo, a sinistra un palazzo. Purtroppo. Quindi così non posso. Vabbè, non la puoi mettere sul tetto. Ti ho detto come. Non c'è uscita per il tetto, dovrei aprire le tegole. Il casino. Se si fanno lavori magari. Ah, ho capito. Aggiugavite. Vabbè, dai. Piano piano. Oppure quando andrai in pensione ti farai una bella station. Ma no, però ma già mi ascolto, non sento mio alghero magari. Poco anche fatto sopra. Metterebbe un bel treccio giù da giardino. Una quarantina di metri per passare il palazzo, dai. Ehi, abbiamo un piano, dai. Sì, poi a volte si ribassa la gamba, intanto non c'è nessuno, c'è poca gente. A volte pensi, mamma, ma che te lo fa fare? Per quelle quattro chiacchiere già mi ascoltano anche così, perlomeno gli amici più cari, mi sentono tutti. Sì, no, se ti fa sentire mala suerte, ti fa sentire come. Poi a volte abbiamo un po' di carotene anche da mettere sotto. Mi sa che apro anche io la finestra, va? E forse ti gonfieni. Ha fatto col vento qualche mese fa, mi aveva aspettato, lo sai, l'ho trovata coricata su un fianco. Esatto. La parte, diciamo, in legno mi ha aspettato. Deve attaccava proprio al ferro da stendere. E quella lì, quel pezzo di legno entrava dentro un tubo. Ma mi ha aspettato, perché? Perché sicuramente l'antenna crea condensa all'interno. E la condensa poi si è ripositata sul legno e il legno si è marcito, in due anni si è marcito e si è spezzato. Picchiazza! E tu prima eri in basso? Forse è successo sul tetto nella rottura di scarpa, per immagini? È una lavaglia inutile. Ci vorrebbe qualcosa, non so, tipo un vetro regina, costruirlo un bel tubo conico, un vetro regina, in modo che sei sicuro che non te lo spezza, un bello rinforzato, grosso. Forse è l'unica. Ma sei in affitto o la casa è tua? No, no, la casa è mia. Per il momento non puoi fare niente. Sopra di me c'è un'altra, un'altra signora, e poi c'è il tetto su. E mi sono creato di sì anche a tavelle, non è neanche a solaio, quindi se va di casa tua. Vabbè. Ci vorrebbe, non so, tipo tavoloni a fare un camminamento per uscire fuori dal tetto, là. Il tetto di quelli fatti travi in legno, sicuramente. E poi le tavole sono tutte legate una a una col filo di ferro zingato, là. Ah, ho capito. Ma te lo abbiamo, va. No, ripeto, vedi, metti che vai a fare un lavoro, come si chiama del tetto, male che è una scala aerea, quella ti porta su da terra, dal marciapiede ti porta sul tetto. Gappa. Vabbè, dai, io lo stesso su a casa della mamma, la dovrò buttare giù con l'antenna, smontarla e pulirla tutta. Però non è giugana, no, non ne ho voglia. Anche a me mi sta passando un po', sarà l'età, non c'è più la voglia di prima. Prima stavi sempre facendo, smontando, adesso buco verso il periodo che c'è caldo anche. Ma esci bene anche da lì, Arrivi forte. Adesso sta arrivando quasi 9.30, quindi è un ottimo segnale. Adesso non mi ricordo prima con la viale, ma se ti facevi sentire anche con quello. Non ho capito, con quello? Anche con la viale prima, ti ascoltavo bene. Con questo sta arrivando quasi 9.30. E tu Ascolta, sei su, fai un passaggio? Adesso sono al minimo, sono 4 watt. In mezzo, tra il più e il 3, vedi tu. Tra il più e il 3. E tu sei più ancora più avanti. E questo qua da 12 watt il baracchino. No, no, io questo addirittura l'ho abbassato, l'ho portato a... adesso è 4,5, dai. Sì, 4,5 preciso adesso. Per pilotare quella... il beta carotene, capito? Vedi un po' di watt, però esce bene di radio. Tu il microfono stai usando il TARN, così? No, no, sempre lo shure. No, no, ho capito. Esce bene, esce benissimo, no, bene, benissimo. Così è... con qualcosa in più, dai. Guarda un po'. Adesso sei sul 3. Tu arrivi sul 3 invece che liscio, dai. Dipende come è regolato anche lo smitter. Questo l'avevo tarato un po' io perché era, prima era troppo avaro, era vergognoso. Sì, sì. Anche il mio era tarato, non questo, l'altro quello che c'è a casa. E un po' l'ho aggiustato, dai. L'ho montato un po' più o meno, a grandi linee, poi è sempre un baracchino, bisogna prenderlo con cautela questi segnali che dà. Vabbè, quello che c'è a casa tutti a segnale 9. Segna di meno, no? E quindi era questo, eravamo 9, 9, 5. Adesso vedete, se uno è sotto casa, ma a volte passa in macchina, arriva un po' allo scala, prima se lo sognavi di vedere un segnale così alto. Vabbè, purtroppo questi baracchini sono stati usi. No, bello il 3009, mi piace un sacco, bello, bello apparecchio, bello. Con frontale cromato. Anche questo è cromato. Questo è il Samurai, sto usando il Samurai. Come tipo il Galaxy, anche il Galaxy è uguale a questo. Però c'è con una ventina di watt quello in AM. Quale? Il Galaxy, il Super Galaxy, quello che usano loro in macchina. Ho capito. Va bene, non è che... va bene, questi apparecchi purtroppo sono usi. Questo qua adesso da me c'ha il dissipatore dietro, invece il 3009 no. Anche il mio, quello che c'è con 20 watt c'ha il dissipatore dietro, invece questo non ne ha, che c'ha... c'è finali diversi, capito? Però quello là, l'altro giorno mi arrivavo a Sassi dal Miero, un segnale di 4-5, però di radio basso, ci vorrebbe, forse bisogna abbinargli un microfono amplificato, ci vorrebbe in macchina. Se hai anche un microfono normale, va bene comunque, tipo il mio esce bene. Non so, eppure quello là mi ascoltano basso, il segnale è buono, la radio bassa, quindi ho pensato che sia il microfono che non spinge. Mi sto controllando il telefonino, cose vecchie, di 7 anni fa, mi arrivano le notifiche, no? È venuto poco. Lascia vedere questo qua, no, questo qua, ecco. Ah, Facebook? Cosa del 2015, là? In realtà ti fa vedere storie vecchie, fa piacere però dai. Ma cosa mio? Immagini magari che non ti hai neanche salvato, lui te ne fa rivedere. Infatti. Sì, praticamente c'è questo... aspetta, vediamo. Bene, hai ricordi con Orlando, vabbè, Orlando un amico. Da rivivere oggi. Vediamo, aspetta, un anno fa. Questo è un anno fa. E poi a scendere 2020, poi 2020, 2019, qua avevo scritto, mi sono fatto il regalo di Natale, me lo sono fatto il 28 luglio dell'anno scorso. Sono comprato un orologio, no? E un po' anticipato. Vabbè, poi ho scritto che Natale non me ne faccio. No, scherzo, va. E l'orologio praticamente me l'aveva regalato la mia compagna, il Vestina, quello con il vetro, bellino, me ce l'ho ancora lì buttato, si è rotto il vetro, non ne volevo la pelle, avevo cambiato anche le cinghiette, 30 euro in pelle, per carità, e niente, allora ho deciso che ho comprato nuovo, sono preso il break. Vestina l'ho avuto anch'io, adesso sarà fermo, mamma mia. Un cassetto pieno di orologi, prima si usavano quelli suocchi, ti ricordi? quando viaggiavo in aereo, lì dipendevano durante il volo, nei voli internazionali, costavano la metà di quello che lo pagavi qua, e quindi stavo sempre comprando swatch, sono tutti fermi. Confermo, è vero, gli swatch, sì. C'era un periodo si usava solo quello, e al mare ti durava, guarda, anni e anni e anni. Sì, anche il crono, quello acqua crono, quello subacqueo addirittura, un po' più robusto. E che mi hanno detto che se non li usi, poi vai a cambiare la batteria, invece non partono più, perché hanno sicuramente un po' di grasso all'interno, che si asciuga se tu non li usi. E poi non è che c'è un motore che è con tanta forza, quando tu metti la batteria non ce la fa partire, e quindi è un lavoro inutile. Allora, a me mi si è scaricata la batteria, e sono andato, l'ho comprato, me l'ha fatta pagare 5 euro. Poi ho detto, cazzo, dopo 2 anni si è bloccato. La batteria dura 2 anni. E dipende che batteria ti ha messo, però se io vado da Minucci lì, mi sembra che lui usi le Sony, e mi fanno dai 4 ai 5 anni le batterie. Beh, certo, io uno, l'ultimo che mi hanno regalato è senza batteria, no? Si ricarica da solo, c'è il pannello solare all'interno del quadrante, ma neanche si vede. Sono quelle serie Pro 3 che hanno barometro, temperatura, altimetro, sono bellini, e non è molto grande, non è abbastanza compatto. Sempre c'è un sacco, ce ne ho visto un altro stesso, è festina, bellino. No, vabbè, al momento io tengo quello, adesso voglio comprare il Ray-Ban da sole. E quelli quanto costano? 150, 120, ma... Ehi, circa, allora, se li prendo su internet 100 euro, se li prendo qua 125. Mi si devono pagare sui 120 l'altro di Alghero. Adesso la struttura che stanno mettendo l'IVA anche su quei siti dove comprare a buon prezzo, tipo Alibaba, AliExpress, quanto deve aggiungerci anche l'IVA, maledetti. Adesso vediamo, ora per il momento non posso affrontare questa spesa, ne ho un'altra spesa in corso. Ma già non è una cosa prioritaria, dai, vedi tu qual è la più importante da fare. Sì, prima le cose più importanti, e domani c'ho il dentista da mezzogiorno. Sono dolori. Ho notato che preso una volta facendomi l'anestesia l'ha fatto male con l'ago. Sono dolori tutti i sensi, se vai a pagamento guai. Sono a pagamento. Dico, sono dolori 2 volte allora. E poi quando lo sta pulendo, no? Se a me mi frigge mentre stai passando, mi devo lamentare, ehi cavolo, vuoi essere sensibile? Ma se mi dà fastidio, a cosa esiste l'anestesia? A me dà fastidio anche, ma meglio, solo parlare adesso mi fanno male i denti. Quando ti fa la pulizia dei denti, mamma mia, che fastidio. Ma infatti io quelli di sopra li ho tutti puliti. Purtroppo quando fumavo, e vabbè, non l'ho mai fatta comunque sia. Adesso deve dare un'altra controllatina, domani glielo dico. No, si fa finché un rumore con quella frasetta che poi c'è tutti i colletti, madonna. Ripeto, solo a parlare adesso mi sento male. Purtroppo. Ci devi andare. E come adesso è un problema alla macchina, è un casino. Vabbè, dove non li senti? Ah, ti senti i dolori di soldi. Ma io già le 2 volte che mi mettono sicuramente acqua nel serbatoio, 2 volte che ho dovuto portare la macchina in assistenza. Ho trovato acqua nel filtro del gasolio e di conseguenza ho dovuto lavare anche il serbatoio. 2 volte nel giro di 3-4 mesi. Casino. Ma che macchina nuova hai? Non è nuova, però non è neanche vecchia. Vabbè, comunque. È un casotto. La macchina quando è andata dal meccanico, quella è la musica. Anche se è ancora in garanzia, però non è che ti cambiano le cose, diciamo, del danno che fanno gli altri. Finché non so, se non guardano il motore, intervengono loro. Ma se uno ti mette acqua nel serbatoio e vai a rovinare la pompa di iniezione o valvole varie, elettrovalvole, o iniettori, e quelli la roba la paghi. Certo, mi è arrivata una notifica di YouTube Genova. Genova, due tentati sequestri per recupero. Ho fatto corde, pistole, coltelli. Vabbè, niente, passa montagna. La polizia li ha presi. Vabbè, corde. Cavolo, pistole. Cazzarola. Mia pistola, vabbè. E cosa stanno facendo? Un sequestro. Walkie talkie, cartucce, di tutto e di più. Pure droga c'era, marijuana. Vedo. Tutto il walkie talkie, li senti quelli del centro vaccinale? Li ascolti con le radioline? No. Quello del canale 7? No, non so io la frequenza, non so, perché io dei canali che avevo già memorizzato. Però mi dice che canale è, però non so la frequenza, quindi non ti posso aiutare. Li sento tutti i giorni, eh? Il parcheggio dice scendi, faccio scendere una macchina, non so, una Y-TOS. Oppure uno deve fare il vaccino, non è prenotato, lo faccio scendere, tutto si sente. Ah, no. No, sai che fa? Mi devo assentare un attimo per vedere un po' cosa mangiare per stanotte, organizzarci qualcosa. Se mi aspetti ci sentiamo dopo. No, tranquillo, anche io guardo, faccio una doccia. E poi, adesso mi aiuti per cortesia. Sono le 7:04, io la doccia ho già fatta. Mezzo e mezzo, la fresca, nella via di mezzo, fredda fredda non la faccio. Ma un ragazzino la facevo, adesso non più. E poi dicono che è peggio, se la fai fredda poi sudi di più, invece che sia leggermente più caldina, dai. Non dico calda, però che dia più sul caldo che sul fresco, che poi non senti, se no non senti pure shock. Vabbè dai, ti lascio tranquillo, anche io vado a farmi una bella doccia e ci aggiorniamo alla prossima, ok? Grazie per la chiacchierata, ciao Lu. E già è acceso qua, magari se entra Giulio dopo, entra sempre la sera. A dopo semmai, se no la prossima, ciao Fra. No, che forse usciamo, dai, se rimpresa usciamo a fare una passeggiata. E non fai male, ciao, buona passeggiata allora. Buttiamo giù un po' di pancia, dai. Un po' di birra. Ciao, ciao. Via, ciao. C'è qualcuno sul canale 10? C'è qualcuno?